Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Shelter of Leech. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD No One Else Around, come il primo che è andato in onda. Titolo? Questa era K.O. è la canzone che abbiamo scelto anche come singolo per il video che a breve uscirà a febbraio, e l'abbiamo scelta perché è una canzone per noi forte, diretta e ci piaceva. La vostra esperienza durante la registrazione e quali le idee musicali che hanno poi formato questo disco? Beh, diciamo che le idee musicali sono state molte e la bellezza del disco è che è stato fatto in un periodo di tempo veramente molto ristretto, quindi alla fine, anche senza volerlo, ci si è trovato ad avere pezzi che avevano un po' tutte le di base le stesse idee, lo stesso background, soprattutto da parte mia per la scrittura dei testi, anche se non era assolutamente voluta la creazione di un concept album. La prossima canzone per i nostri ascoltatori? Ah beh, questa io farei ascoltare Every, che è la canzone che ben sintetizza un po' quella che è la tematica dell'album. Parla dell'isolamento e della perdizione di questi anni, dove la comunicazione è, per così dire, imposta. in studio ancora con gli Shelter of Leech. Recensioni, quali le più importanti e cosa dicono del vostro album? Allora, le recensioni stiamo aspettandole per buttartici dentro. Stanno arrivando. Comunque, chi ha comprato già il CD è molto contento e ci fa veramente i complimenti per il lavoro. Soprattutto perché all'interno di ogni CD ci sono 100 euro, quindi sì. Non è male, è un invito buono. Ne ho presi due io. Prossima track. Ah, la prossima che vi facciamo sentire è Torm, parla del torpore delle coscienze in questa, ormai nulla più ci stupisce chi finge di indignarsi è più immorale degli altri. Questa è Torm. Noi torniamo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Shelter of Leech. Rimanete su Radio RCS.